Radio 24. Libera la voglia di fare. La bufala in tavola di Nicoletta Carbone. Sono le tagliatelle di mattina, un giro di energia, effetto vitamina. Mangiate calde con la bufala, ti fanno il pieno per svegliarti anche più. Perché le tagliatelle. Ma le tagliatelle di nonna Pina, che cosa vi preparava la vostra nonna alla domenica? Qual è il piatto della vostra infanzia, il piatto del vostro cuore, quello che mangiavate la domenica o nei giorni di festa per il vostro compleanno? Lo mangiavate o avreste avuto piacere di mangiarlo se qualche nonna Pina avesse avuto il buon cuore di prepararvelo? Allora scrivetemelo alla bufala in tavola @radio24.it. Abbiamo iniziato con le tagliatelle di nonna Pina perché parleremo anche di tagliatelle naturalmente, ma vogliamo anche parlare dei nostri bambini. Sono tipetti particolari, se fossero clienti potremmo definirli difficili ed esigenti, perché hanno i loro gusti, hanno i loro tempi che non sempre coincidono con quelli che noi riteniamo utili, corretti e in grado di promuovere la loro salute. Allora cerchiamo di convincerli un po' a fare come diciamo noi, lo facciamo con le buone o con le cattive, quindi con le promesse o con le minacce. Il risultato, a volte a tavola scocca l'ora della battaglia. Allora noi invece vogliamo andare assolutamente d'accordo, per cui ho invitato intanto una che i bambini li maneggia e li sa prendere per il verso giusto, non per contropelo come si dice, la dottoressa Alessandra Bosetti. Buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Dietista clinico al centro di nutrizione e diabetologia dell'ospedale pediatrico Buzzi di Milano. Le facevano le tagliatelle a lei, la nonna Pina, o che nonna aveva? Io avevo una nonna Pina che mi faceva le tagliatelle, gli gnocchi, l'arrosto con le patate al forno, che adoravo e adoro ancora, ovviamente. E quindi questi sono un po' i piatti della sua infanzia, che però, insomma, con cui è cresciuta anche, perché non li ha abbandonati. No, anzi. Allora, il piatto della vostra infanzia è il piatto soprattutto che preparate ai vostri bambini. La bufala in tavola, @radio24.it. Dottoressa Bosetti, i bambini sono un po' difficili. Intanto ci sono anche delle leggende metropolitane sui nostri bambini, no? Su come educarli a tavola, su come educarli ad una buona, sana alimentazione, perché lo sappiamo bene, voi ce lo ripetete costantemente, è proprio nell'infanzia che si mettono le basi. Dottoressa Bosetti. Allora, la materia è ardua. Dunque, lavorare con i bambini ti costringe a togliere il camice ideale e a scendere un po' a compromessi, per cui è questa la grande difficoltà. Io devo dire che è molto bello, e il grosso lavoro in realtà lo dobbiamo fare con i genitori, perché certo, i bambini sono esattamente lo specchio di quello che imparano o non imparano a casa. E con tutta questa fretta e questi miti e riti attorno all'alimentazione moderna, il nostro lavoro... Si rischia, ecco, il vostro lavoro, noi vi rendiamo il lavoro difficile, e a volte anche i genitori sono in difficoltà, perché i bambini tendono a mangiare poco, a mangiare troppo, troppo di quello che vogliono loro, ad avere dei gusti che sembrano assolutamente monotoni ai grandi, e allora mi raccomando, stai fermo a tavola, mangia tutto, se non mangi allora niente cartoni, devi mangiare le verdure, se non mangi la carne, se non mangi il pesce, attenzione, non ti mangi poi il dolce. Mamma mia, noi eravamo, le nostre nonne e le nostre mamme ne sapevano di meno, e forse la nostra vita era più semplice. Assolutamente. Lei che i genitori li vede e i bambini li frequenta, poi parleremo anche di bambini che sono affetti da diabete, e perché il ruolo del dietista clinico è proprio quello di accompagnare ed educare le persone e far sì che l'alimentazione diventi parte della terapia. Ma adesso rivolgiamoci ai genitori che forse stanno cercando di rincorrere il bambino che sta scappando. Lasciatelo scappare, poi torna e si siede alla bufala in tavola. Quali sono, secondo lei, gli errori dei genitori di oggi? Può sparare a zero, tanto siamo in radio, poi vengono a cercarci dopo. non dia assolutamente i miei recapiti e il mio indirizzo, soprattutto del mio posto di lavoro o di casa. Allora, ritengo che essere genitori oggi sia ancora più difficile di quello che poteva essere il mestiere dei genitori, dei nostri genitori. Una volta non avevamo tante alternative. La mia nonna e la mia mamma mi diceva: chi non mangia, ha mangiato. Oggi invece c'è una grandissima ansia e si parla di cibo. E paradossalmente stiamo perdendo invece un po' il senso di quello che il cibo è. Il cibo è amore, è convivialità, è educazione, ma non è educazione in quanto il cibo è educato, è il modo di prepararlo, proporlo, consumarlo che dà dei messaggi che poi uno si porta nel corso della vita. Ecco, tutta quest'ansia attorno al cibo sta degenerando, per cui forse stavamo meglio quando stavamo peggio che... Ma le mamme vengono da lei a dire: dottoressa, il bambino non mi mangia? Sempre, ecco, sempre. E come i pazienti adulti che seguo, obesi, che mangiano solo la bistecca scondita con l'insalata. Cioè qualcosa non torna, cioè, dice qualcosa lei. Non torna. Ritengo che sia veramente un male un po' dilagante questo apparentemente non saper gestire un atto che è atavico, perché voglio dire, noi mangiamo da sempre, abbiamo molti più mezzi che ci facilitano anche la gestione del menù quotidiano. Entriamo in qualsiasi supermercato, troviamo la pasta asciutta, le verdure, queste famose verdure che è difficile mondare, pulire, lavare. Oggi il compito è facile, non è forse facile nella nostra testa. Allora, noi ci fermiamo, intanto riflettiamo, potete scriverci, potete acchiappare i bambini, raccontarci anche che cosa state preparando oggi, che cosa metterete in tavola. Noi vogliamo portare sulle vostre tavole informazione e chiarezza, naturalmente anche un po' di piacevolezza, perché parliamo di cibo, parliamo di cura, parliamo anche di salute, il cibo che nutre tutta la nostra, il nostro piacere, il nostro gusto, ma anche la nostra salute. Che dire, restate, accomodatevi, tra poco insieme alla dottoressa Alessandra Bosetti. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta. La bufala in tavola. Oggi aggiungiamo anche le seggioline perché invitiamo anche i nostri bambini. Che belle le tavole dove ci sono tanti bambini. Sicuramente sono abbastanza movimentate. Ne stavamo parlando con la dottoressa Bosetti, che oggi ci aiuterà a mettere pace tra genitori e bambini, soprattutto quelli bambini che fanno un po' di capricci, non vogliono mangiare le verdure, si alzano in continuazione, hanno una dieta monotona, ma anche i bambini che mangerebbero sempre. La dottoressa Bosetti ha mandato proprio di domenica, io la adoro, un messaggio molto tranquillizzante. No stress, no ansia, i bambini crescono, mangiano quello che si sentono, vanno educati ma non stressati, perché sennò anche il momento del pasto diventa un'occasione di litigi, promesse, minacce. Ritorniamo alla serenità del momento del pasto. Dottoressa Bosetti, ci guida lei e iniziamo dall'inizio, come si dice, da una buona colazione. La buona colazione è lo sprint giusto, perché normalmente noi digiuniamo mentre dormiamo, per cui dobbiamo inserire il giusto carburante nel nostro motore. E tutti gli alibi per non fare colazione non possono essere accettati. Quindi lei è così sorridente, però è una tipa tosta. È abbastanza. I bambini mi hanno insegnato molto. Le ho raccontato più volte come nei campi educativi che noi organizziamo per i bambini col diabete, divento mamma di 30-35 scatenati e nessuno il primo giorno fa colazione, il giorno dopo la colazione si fa. Qual è il segreto? Perché parliamo di colazione? Perché chi non fa colazione poi lo spuntino di metà mattina lo farà troppo ricco, quindi avrà scarso appetito a pranzo, poi la merenda al pomeriggio sarà una super merenda rinforzata, risultato che il bambino arriva con scarso appetito a cena e di lì di nuovo, ecco. Sì, è un circolo mostruoso, non virtuoso, mostruoso. Ci sono dei dati pubblicati che dimostrano come i tassi di obesità negli adolescenti siano più elevati in quelli che non consumano una buona colazione. Per cui abbiamo tutto quello che ci serve per riflettere. È una questione di organizzazione, non pretendiamo che tutti i nostri bambini mangino delle buonissime fette di torta preparate la sera prima, cioè dalla mamma, dalla nonna, dalla zia. Ci sono delle alternative per le famiglie moderne che hanno poco tempo, per cui non ci sono tanti alibi che possiamo accettare per questo. Cosa possiamo preparare? Perché noi insistiamo sulla colazione soprattutto per gli adulti, ma gli adulti danno il buon esempio, così anche i bambini mangiano, perché ormai noi grandi abbiamo imparato che la colazione deve essere un piccolo mini pasto della giornata. Ne abbiamo proprio parlato domenica scorsa, però anche per i bambini funziona così, soprattutto per i nostri bambini che imparano, mettono le basi della loro alimentazione, del rapporto con il cibo quando sono piccoli. E questo è un investimento per la loro salute, perché poi parliamo di bambini che sono sovrappeso, parliamo quindi di rischi, di tante di quelle che vengono considerate malattie del benessere. Dottoressa Bosetti. Sì, abbiamo delle alternative sia dolci che salate, per cui possiamo accontentare proprio tutti. L'importante è che ci siano sempre dei carboidrati complessi, per cui che possano essere dei biscotti integrali, del pane integrale, una fonte di proteine che può essere il latte o l'equivalente di yogurt o di formaggi se qualcuno preferisce mangiare delle cose salate, e poi una fonte di vitamine che può essere la frutta, la macedonia, resa sfiziosa. Penso che si abbia proprio tutto per poter pensare a un menù gustoso che possa piacere a tutta la famiglia. Lei ha parlato di macedonia, anche spremute, e non ha parlato di succhi. No. Che sono invece per molte mamme una scelta che è rapida, veloce, ma che insomma non incontrano il placet di nutrizionisti, di dietisti, proprio per la presenza di grosse quantità di zucchero. Sì, sui succhi di frutta c'è una revisione critica. È stato fatto una grande campagna di marketing, no? Nel proporre negli anni '80 come delle alternative a chi non riusciva o non voleva consumare frutta, intesa come frutta intera. Il mondo dei succhi è un mondo variegato, ritengo di poter dire senza nessun tipo di ombra di dubbio che mangiare un frutto intero ha un valore non solo per il contenuto nutrizionale, per il contenuto di fibra, ai bambini insegna a masticare, certo. Perché mangiare una mela, mangiare un'arancia, mangiare un kiwi è molto diverso che bere e trangugiare qualcosa che in 365 giorni all'anno ha lo stesso sapore, perché comunque viene sottoposto a dei processi di sterilizzazione e di conservazione. I succhi di frutta, anche quelli a minor contenuto di zucchero, sono comunque, rispetto al prodotto naturale, più ricchi di zucchero. Allora, noi siamo qua anche per dare delle indicazioni, ma per i genitori che per una serie di ragioni non vogliono alternare il frutto al succo di frutta, alla spremuta, nell'acquisto, nella scelta di prodotti confezionati, osserviamo l'etichetta, quali preferire? Ci sono oggi centrifugati, frullati, freschi, si trovano nei prodotti, nei banchi del fresco, nei supermercati della grande distribuzione, e sono dei prodotti migliori da questo punto di vista. E poi bisogna imparare a leggere le etichette. Abbiamo fatto delle indagini, circa il 50% dei genitori non sa decodificare un'etichetta nutrizionale. Ecco perché dicevo l'ansia, cioè sì. Sembra quasi un paradosso, siamo tutti preoccupatissimi, poi le cose più banali ci scappano. Allora, imparare a leggere un'etichetta nutrizionale vuol dire che su 100 ml di prodotto, se ci sono 30, 40, 50 grammi di zucchero, l'equivalente quasi di 3-4 bustine da bar, ecco, quello è un prodotto che non va bene. O meglio, va bene quando andiamo in gita, quando cadono 4 metri di neve per cui non possiamo andare al supermercato, oppure In situazioni cliniche particolari, le parlavo appunto del diabete di tipo 1, i succhi correggono l'ipoglicemia e la correggono rapidamente, proprio perché sono una fonte di carboidrati molto rapida. Quindi, attenzione, noi possiamo arricchire la dieta dei nostri bambini, possiamo anche semplificare la nostra giornata proponendo a volte prodotti freschi, a volte prodotti già che possiamo acquistare, ma l'importante è leggere bene l'etichetta. Di solito gli ingredienti, dottoressa Bosetti, la disposizione degli ingredienti ci dà già una indicazione. Perché... Sì, ci dà un senso, perché normalmente il contenuto è in ordine decrescente, per cui il primo ingrediente della lista è normalmente quello più rappresentato. Un altro, come dire, trucchetto che insegniamo ai genitori è quello di imparare che quanto più un'etichetta nutrizionale è ricca di ingredienti, tanto meno naturale è il prodotto. Qual è il numero ideale degli ingredienti? 5, 7? Perché sono... non più di 5. Non più di 5. Allora, gli ingredienti quindi si devono contare sulla punta delle dita della mano. Dottoressa Bosetti, lei è una dietista clinico, il che significa che è quella figura, lei tra l'altro lavora in un ospedale, segno che il nostro servizio nazionale mette a disposizione figure professionali che accompagnano le persone a utilizzare anche, a imparare a utilizzare l'alimentazione anche come terapia, a supporto della terapia, ma anche per ritornare al peso forma. Lei lavora in modo specifico e non solo con i bambini, per i bambini affetti da diabete di tipo 1, ma naturalmente lavora anche con tutte le persone, anche gli adulti, che hanno delle patologie particolari in cui la scelta di un tipo di dieta può aiutare, può supportare anche le terapie. È una figura di cui mi piace parlare, perché spesso, parlando di alimentazione, parliamo con nutrizionisti, con medici che sono specialisti in alimentazione, ma la sua è una figura chiave. Dottoressa Bosetti, quindi concretamente lei mette le mani in pasta, ecco. Sì, io insegno a mettere le mani in pasta. Ecco. Il dietista clinico è una figura che il Sistema Sanitario Nazionale riconosce dal 1975, è un tecnico laureato, il corso di laurea in dietistica fa parte della facoltà di medicina. Ecco perché... La dicitura clinica rende conto di come il percorso formativo di chi si laurea in dietistica è un percorso a grande e forte impatto clinico. È il tecnico laureato che affianca il medico dopo una diagnosi nella messa in pratica, per cui nell'elaborazione di un programma alimentare personalizzato e nella valutazione dello stato nutrizionale. Questo è un po' il senso della mia figura. Tornerei a parlare quindi di bambini con diabete di tipo 1, poi parlerei anche, lo sappiamo, viene considerato quella è una grande minaccia per la salute mondiale, e parliamo di diabete di tipo 2, perché anche, e poi tra poco il 14 di novembre si celebra la giornata mondiale, anche perché su questo, sull'alimentazione delle persone con diabete circolano ancora, nonostante i numeri, nonostante le campagne, le informazioni che riceviamo, tante, posso dire inesattezze, per non dire fake news o bufale, perché anche qua bisogna fare chiarezza. Dottoressa Bosetti, rivolgiamoci ai bambini, quindi affetti da diabete di tipo 1 o diabete giovanile, come veniva chiamato un tempo. Sì, ci sono tanti miti e riti. Sì. Per quanto riguarda l'aspetto alimentare nella gestione clinica del diabete tipo 1, noi insegniamo quanto di più semplice c'è in realtà, che non esiste una dieta per i bambini che hanno il diabete tipo 1. I bambini che hanno affetti da diabete, ben compensato ovviamente, certo, perché poi le fasi dell'esordio, insomma quelle che possono essere i momenti della crescita, ovviamente bisogna insomma avere qualche attenzione in più. Comunque esiste la conoscenza degli alimenti e quello che è un meccanismo di educazione alla conoscenza del contenuto di carboidrati. Ci fermiamo qui perché continuiamo insieme subito dopo la pausa. Restate con noi e insieme alla dottoressa Bosetti. La La bufala in tavola. Siamo tornati, accanto a me la dottoressa Bosetti, parliamo di bambini, parliamo di cibo. Mangiamo per piacere, mangiamo per gusto, mangiamo anche per salute. E in alcuni casi, in alcune situazioni, l'alimentazione diventa molto importante, fa parte proprio della terapia. Di questo si occupa la dottoressa Bosetti all'ospedale Buzzi, che è l'ospedale dei bambini di Milano. Dottoressa Bosetti, indicazioni, perché nonostante si parli spesso di alimentazione, ci sono trasmissioni, articoli, poi rimangono dei timori, delle leggende metropolitane che in qualche modo portano lontano le persone dalla verità e quindi costringono a delle rinunce che sono inutili oppure valorizzano alimenti come miracolosi quando miracolosi non sono. Quindi, tornando ai nostri bambini con diabete di tipo 1, lei diceva. Dicevo che non esiste una dieta per un bimbo affetto da diabete tipo 1 se non in situazioni particolari, per cui le indicazioni che diamo di alimentazione equilibrata, onnivora, per cui una dieta ricca sono le stesse che noi diamo ai bambini sani per crescere in salute. Perfetto, e questo vuol dire anche per i genitori una grande rassicurazione, perché lo sappiamo bene, nei bambini tutto quello che non è uguale agli altri è fonte di disagio, di complesso, di preoccupazione. Diabete di tipo 2 sta aumentando e le proiezioni parlano veramente di una pandemia. Anche in questo caso i numeri sono alti, ma sembra che l'informazione non arrivi a tutti. Ci sono delle attenzioni o delle raccomandazioni che lei vuole fare proprio oggi, tanto che siamo qua a tavola, ecco, e parliamo di cibo? Sì, anche sul diabete tipo 2 ci sono tantissime leggende da sfatare. Gli anni 80 e gli anni 90 hanno visto veramente penalizzato i pazienti e non è stato insegnato loro che l'attività motoria, per cui la composizione corporea, che deve essere in qualche modo tutelata già dall'adolescenza, dall'infanzia, ti permette di arrivare più o meno nella seconda parte della vita, quando in realtà l'incidenza del diabete 2 aumenta, ti permette appunto di controllare questa patologia che è molto legata allo stile di vita, per cui molto legata all'obesità, soprattutto all'accumulo di grasso viscerale. Ecco, questa è un po' la nuova chiave di lettura di questa ansia attorno al piatto. Più che l'ansia attorno al piatto, senza togliere il mio mestiere, ci mancherebbe la promozione di consumi di alimenti come i cereali integrali, i legumi, il pesce, a sfavore di altri alimenti ad alto contenuto, mi viene in mente, di proteine animali, con grassi saturi. Però tutte queste informazioni ormai sono chiare. Quello che non è chiaro è che il vero volano di salute è quanto noi usiamo nel corso delle prime tre decadi di vita il nostro corpo in modo, sano, attivo. Ecco, questa è la vera differenza. Questo ti permette di arrivare a 40-50 anni, quando il diabete tipo 2 purtroppo molto spesso bussa alle porte, ma bussa alle porte perché per le prime quattro decadi di vita hai mangiato forse un po' troppo del dovuto e non hai fatto in modo di avere una composizione corporea, soprattutto in massa muscolare, metabolicamente attiva, che ti preserva da questo tipo di patologia. C'è un esame che si paga un ticket un po' altino, ma è a disposizione delle persone, non solamente quelle affette da una patologia, ma anche degli sportivi che vogliono capire un po' e vedere come è composto il loro corpo, quanti muscoli e quanta ciccia in sostanza. Sì, nei centri di nutrizione e dietologia clinica, per cui in ambito ospedaliero, noi ne abbiamo appena inaugurato uno all'ospedale Buzzi all'interno della clinica pediatrica, che non è solo dedicato in realtà all'età pediatrica e al mondo della ginecologia, il nostro ospedale ha questa missione, esiste la possibilità di fare una diagnostica nutrizionale seria, accreditata. E l'esame di cui parlava lei si chiama calorimetria indiretta, è l'esame gold standard universalmente riconosciuto come l'esame capace di stimare i dispendi energetici basali di un soggetto, che sono in realtà è espressione del quantitativo di massa muscolare del corpo. Per cui questo esame dà ragione ai clinici o comunque agli addetti ai lavori di valutare in quel momento preciso, in quel momento storico, quanto sono i dispendi e indirettamente certo. quanto di quel corpo la massa muscolare brucia a livello energetico. Questo è il punto di partenza per fare una valutazione clinica accurata e poter poi costruire un'alimentazione personalizzata. Intanto voglio salutare, lei parlava di movimento, sicuramente sarà arrivata quasi di corsa perché le ho dato un appuntamento ed eccola qua, la nostra prossima ospite è la dottoressa Serena Missori, endocrinologa, nutrizionista, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. È arrivata di corsa, lei la sua attività, la fisica l'ha già fatta e quindi può sedersi, è contenta e soddisfatta alla tavola della bufala in tavola. Dottoressa Missori, ci sono tanti tipi, ne abbiamo parlato in trasmissione insieme alla dottoressa Bosetti, abbiamo parlato di bambini, ciascuno di noi è un po' diverso e lo era forse diverso anche quando era piccola. A proposito, qual era il suo piatto preferito quando era piccola? Il piatto della festa magari è quello anche. Assolutamente sì, le fettuccine al ragù di mia nonna, quindi quella veramente era il piatto preferito della festa e faceva famiglia, faceva casa, calore. Ed è sicuramente saziante e gratificante. Sono le tagliatelle di Nonna Pina, un pieno di energia, effetto vitamina. Dottoressa Missori, non so se la sua nonna si chiamava Pina o si chiama Pina, in ogni modo vanno molto, cioè al primo posto le tagliatelle di Nonna Pina. Dottoressa Missori, non so se lei suggerisce le tagliatelle di Nonna Pina anche ai biotipi di cui parla nel suo libro, un libro molto interessante, si chiama proprio La dieta dei biotipi e spiega perché le tagliatelle di Nonna Pina piacciono a tutti, ma c'è chi le mangia in grassa, c'è chi invece le mangia e non si muove di un etto, siamo tutti squisitamente differenti perché siamo tipi diversi. Diversi, sì, da un punto di vista costituzionale, infatti basta guardarci, per esempio non abbiamo tutti lo stesso cranio, qualcuno è il bisovale, qualcuno triangolare, qualcuno più rettangolare, qualcuno è filiforme, qualcuno è un pochino più tarchiato dall'infanzia, qualcuno beve acqua e ingrassa, qualcuno mangia tantissimo come dice lei e non prende un etto, e queste sono proprio le differenze costituzionali ed ormonali che ci fanno in un certo senso somigliare anche a della frutta o a degli oggetti, tant'è che si parla di biotipo a mela, quindi la persona che è un pochino rotonda e robusta di busto e può corrispondere al biotipo sanguigno delle costituzioni, o magari quello filiforme che somiglia un po' di più ad una banana, come si dice è lungo, non largo, non ha tanti muscoli, oppure il biotipo a pera, quindi la persona un po' più piccolina sopra, un po' più larga sotto, che tende a trattenere tanti liquidi, ad avere ritenzioni idriche e quindi abbiamo il biotipo linfatico. O magari qualcuno assomiglia ad una clessidra perché ha delle spalle ampie, una vita più stretta, il fianchino che poi si riallarga e magari si può. Mi piace quel fianchino che si riallarga è una poesia. Esattamente. Però proprio perché da un punto di vista anche scheletrico, muscolare, siamo tutti differenti, ma lo siamo anche da un punto di vista caratteriale, perché ad esempio la persona che somiglia un po' di più ad una banana, il cerebrale, è quello che è iperattivo, va sempre con la mente a mille, consuma tantissimo, ha sempre fame ed è sempre alla ricerca di zuccheri, perché ne consuma in continuazione e quindi è una persona che tende ad avere quasi una dipendenza dagli zuccheri, dai biscotti, dai prodotti confezionati, ma questa dipendenza in realtà gli fa aumentare aumentare la quota di nervosismo e di ansia, perché ogni volta che mangia qualcosa con lo zucchero gli aumenta la glicemia, poi aumenta l'insulina che lo manda in ipoglicemia ed è sempre quindi alla ricerca di cibo. Quindi noi possiamo aiutarlo in questa sua situazione costituzionale ed ormonale facendogli cambiare la fonte di approvvigionamento degli zuccheri, quindi magari switchare dal biscotto farcito o non farcito alla merendina, magari al pane tostato con l'olio extravergine d'oliva, perché gli fa rilassare lo zucchero nel sangue più lentamente. Quindi ad ogni costituzione probabilmente c'è da associare un tipo di alimentazione per andare a potenziare lati positivi e magari correggere quelli più negativi. Quindi banana, mela, pera, clessidra. Io quando sento parlare di mele e di pere, quindi di queste due costituzioni che sono poi i biotipi che noi conosciamo, mi viene in mente anche la melanzana, che corrisponde, dottoressa Sironisa, quelle insomma dove non c'è tanta vita, non c'è dove non c'è il punto, vita, diciamo, perché la vita c'è, ecco, perché la vita, ma non c'è il punto, non è poi così marcata, non noi dobbiamo mettere un punto, ma ricominciamo subito dopo il nostro punto, che è una pausa. Intanto potete iniziare a smangiucchiare qualcosa. Se i bambini hanno fame, che gli diamo a questi bambini che hanno fame? Un bel piatto di pasta asciutta, magari integrale. A tra poco. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta. Sono stanco degli esperti, degli opinionisti, delle menti illuminate, dei polemisti, dei cattivelli e dei buonisti. Non mi interessano i liberati, gli emancipati, i saggi e i timorati. Mi annoiano i cinici, i brutali, gli spregiudicati e gli immorali. Sbadiglio quando ascolto i mangiapreti, come pure i clericali. Non mi convince chi difende i valori come chi inneggia i pastori. Non mi divertono le vergini vestali, ma nemmeno i libertini plateali. Che faccio nel mio tempo libero? Parlo alla radio, ascolto chi mi ascolta ogni giorno per il solo piacere del dubbio. Melog, il piacere del dubbio, dal lunedì al venerdì, dopo l'informazione delle 12 su Radio 24. La bufala in tavola. Ma che bella domenica insieme a Nicoletta della Bufala in Tavola, lo state pensando? Provate a pensarci allora, tanti invitati, tanti bambini, tanti esperti. La dottoressa Serena Missori è arrivata e ci ha proposto una lettura dei biotipi, ci ha parlato di banana, di mela, di pera, io ho aggiunto la melanzana, di clessidra, siamo tutti diversi e per fortuna, e in base alle nostre caratteristiche, alle nostre peculiarità, la scienza della nutrizione ci suggerisce a quali alimenti dare la preferenza o soprattutto quale mosse privilegiare per mantenerci in forma nel senso pieno del termine. Dottoressa Missori, le rubo ancora qualche minuto perché lei è giusto con noi qua per uno spuntino, poi andrà a mangiare da un'altra parte e male fa, ma comunque è invitata anche per la prossima volta, giusto? Bene. Allora, bene, no, volentieri. Bene, noi abbiamo detto la banana, qualcuno si è riconosciuto, tipi un po' cerebrali, sempre attivi, che hanno bisogno di tanto carburante. Per quanto riguarda la mela e la pera, ricordiamoci che tendono ad accumulare tanto adipe, soprattutto viscerale, soprattutto la mela, quindi cerchiamo di non abusare con i carboidrati, di non associarne troppi nello stesso pasto e di prediligere per esempio i cereali integrali, che non significa sempre solo pasta integrale, ma i chicchi interi, quindi il riso integrale, il grano saraceno o anche la quinoa che è un seme, o il farro che non è stato raffinato. Invece per quanto riguarda il biotipo linfatico a pera, ricordiamoci che tende ad accumulare tanti liquidi soprattutto negli arti inferiori, quindi è importantissimo associare in tutti i pasti delle verdure amare diuretiche come ad esempio la rucola, ma va bene anche il sedano, il pinsimonio, vanno bene anche i finocchi sia cotti sia crudi, ma ricordiamoci che è importante anche non eccedere ad esempio con la frutta, perché per esempio nel biotipo linfatico la frutta tende a dare molti più ristagni rispetto al biotipo cerebrale. Quindi le pere piano con la frutta. Piano con la frutta. Care pere. Ecco, che a me sono simpatiche le pere. La frutta un po' più asprigna. Le arance possono andare bene, vanno bene anche i limoni. Ricordiamoci che i limoni possono essere spremuti esattamente come le arance, ma utilizziamo anche la scorza, perché la scorza, se è edibile, quindi controlliamo bene l'etichetta al supermercato se le compriamo confezionate in bustina, se la buccia è edibile grattugiamola magari sull'insalata, perché gli oli che sono contenuti nella buccia, ma anche i flavonoidi nella parte bianca, aiutano a disintossicarci, ad attivare il metabolismo. Questa mi piace, anch'io le aggiungo. Non sapevo di tutte queste virtù, ogni tanto io grattugio un po' di rapatura di limone. Senta, ma ci vogliamo dimenticare della clessidra? La melanzana, ho visto che me l'ha segata. Gliel'ho segata perché è a metà praticamente fra la mela e la pera. La melanzana... Né carne né pesce. È una mela che è diventata anche un po' pera. Quindi perché? Perché ognuno di noi può essere costituito da più biotipi. Non siamo tutti uguali proprio per questo, tant'è che esistono i biotipi sdoppiati, sono soprattutto quelli femminili, in cui le donne, soprattutto le donne, hanno una corporatura piccola dal cranio al punto vita. Poi dal punto vita in giù sembrano tutt'altra persona, perché sono molto più grandi anche di ossatura, e questi sono i biotipi sdoppiati. Quindi anche qui con l'alimentazione bisogna paradossalmente trattare la parte superiore in un modo e la parte inferiore in un'altra, in alcuni orari specifici della giornata. Invece la clessidra è quella un po' più fortunata, perché è quella più equilibrata da un punto di vista costituzionale ma anche ormonale. Ma è quel biotipo che quando ingrassa se ne accorge quando ha preso tanti chili, perché li distribuisce ovunque. È la persona che sale sulla bilancia e dice: oddio, ho preso 5 chili. Mentre il sanguigno e il linfatico se ne accorgono prima, perché li localizzano in alcuni punti specifici. Allora, posso, oltre a chiedere ai miei amici che ci stanno ascoltando, abbiamo chiesto di scriverci un po' il piatto della loro infanzia, la ricetta preferita. Le tagliatelle della nonna Pina vanno molto, però ci saranno anche, che ne so, la torta al cioccolato, la ribollita, magnifica. Magari da bambini non ci piaceva tanto, perché poi crescendo i gusti cambiano. Vi chiedo anche di scrivermi dove accumulate il peso. Facciamolo, non magari oggi, domani, perché oggi mangiamo, perché mangiare è un piacere. Scegliamo le cose buone, le cose di stagione, le cose che fanno bene, con un'attenzione anche al nostro biotipo. Dottoressa, lei va, che ci lascia, ma ritorna da noi. La ringrazio, le auguro una buonissima grazie domenica, anche se non mangerà così bene, lo prevedo, perché alla bufala in tavola si sta bene. Grazie dottoressa Missori per essere stata con noi, buona giornata. Grazie. Senti come mangio. Senti come mangio, perché qua, dottoressa Bosetti, non abbiamo visto neanche un maccherone. Altro abbiamo parlato dall'inizio, che parliamo delle tagliatelle della nonna Pina. Io le faccio le tagliatelle, non sono ancora nonna, non mi chiamo Pina, ma le porterò. E dottoressa Bosetti, in questo spazio noi cerchiamo di dare, di spremere dai nostri esperti dei consigli, dei trucchi per portare a tavola il meglio. Allora, abbiamo parlato di bambini, noi sappiamo che ai bambini le verdure non piacciono. Cerchiamo di convincerli con le buone e con le cattive, ma alla fine poi si litiga. Allora, c'è qualche trucchetto che lei ha scovato, che vuole condividere con noi, svelarci? Resta di stucco un barbatrucco, si diceva quando ero piccola io. Il barbatrucco a tavola, perché questa lotta impari contro la frutta e la verdura è veramente faticosa, consiste nell'adottare per tutta la famiglia già nel primo anno di vita dei bimbi i cereali integrali, ma questo non per moda, perché i cereali integrali contengono quella fibra che, se non si mangia la frutta e la verdura, la trovi nella pasta, nel riso, nel farro, nell'orzo o anche nel pane integrale, che puoi sostituire col piatto di pasta. Quindi, se i vostri bambini non mangiano la frutta e non mangiano la verdura, la mangeranno, ecco, perché poi si cambia nel corso della vita, ma voi sopperite, ecco, presentandole dei bei piatti di cereali integrali, e poi crescendo aggiungete anche le verdure. Comunque, niente stress. Certo. Un'altra cosa che volevo così dare come consiglio, ad esempio il pesto ai bambini piace tantissimo. Ecco, è un altro modo per unire a un piatto di cereali integrali, inteso come appunto pasta piuttosto che riso, piuttosto che farro, un sugo dove ci sono comunque le vitamine. E c'è anche magari un po' di parmigiano, per cui quei bambini che magari non bevono il latte, non mangiano il formaggio, ovviamente non compriamo il fabbisogno, però è un, come dire, poi a proposito di grassi buoni ci sono i pinoli, assolutamente, per cui le ansie possono comunque dai davanti calarsi. A un bel piatto con di una pasta integrale condita con un buon pesto, con o senza aglio, io lo preferisco con l'aglio, come il fo, allora tutta la famiglia si riunisce e tutti gli equilibri e le richieste vengono soddisfatti, vedi, a tavola sì. Poi ci si mette poi d'accordo. Dottoressa Bosetti, lei mi ha dato una bella idea, allora tagliatelle della nonna Pina versus pasta integrale con pesto, oppure tagliatelle fatte con un po' di farina bianca, un po' di farina integrale e il pesto. Allora, cosa preferite? Fatecelo sapere, così ve lo prepariamo per domenica prossima per un'altra puntata della Bufala in Tavola. Dottoressa Bosetti, grazie. Grazie a lei, buon appetito. Adesso si mangia anche noi, Non vedo l'ora. Buona domenica da Nicoletta, ci sentiamo domani a Obiettivo Salute, sempre a mezzogiorno, quando dico io scocca l'ora della salute. Dottoressa Bosetti, buona giornata. Grazie.